Siamo in collegamento telefonico con Marina Marzotto per parlare del MICI, la settima edizione del Meeting Internazionale di Cinema Indipendente a Roma, alla Casa del Cinema, 15 e 16 marzo. Marina, benvenuta. Grazie, benvenuti anche a voi se venite da queste parti. Certo. Allora, raccontiamo un po', intanto, visto che si tratta di una settima edizione, ma c'è anche chi non lo conosce, di cosa si tratta. Allora, il Meeting Internazionale del Cinema Indipendente è prodotto da AGCI, che è l'Associazione Generale delle Industrie proprio cine audiovisive indipendenti italiane, che invita anche varie associazioni. Per esempio, quest'anno abbiamo anche il presidente dei nostri corrispettivi tedeschi, abbiamo degli spagnoli, abbiamo degli inglesi, insomma, in una location diversa quasi tutti gli anni in Italia, dove si fanno essenzialmente tre linee di attività: una parte di convegni, di approfondimenti, una parte che riguarda un vero e proprio mercato, cosiddetti pitch, che sono degli incontri uno a uno, che vengono preorganizzati in delle in delle agende, dove essenzialmente la domanda incontra l'offerta. E questo può essere verso dei produttori che, per esempio, hanno dei progetti per dei broadcaster, piuttosto che per la distribuzione teatrica, piuttosto che dei produttori che vogliono incontrare altri produttori che si aggiungano al loro film, per esempio. E poi la terza attività è un'attività di educazione all'immagine, o di formazione, dell'audience o dei produttori stessi, quindi sono dei workshop o, per esempio, delle rassegne. Di solito sono delle rassegne molto profilate, tra virgolette, sul cinema indipendente, piuttosto che sulla serialità, che, come sai, adesso è molto centrale nella innovazione del linguaggio audiovisivo. Sì. Senti, allora, per quanto riguarda io ti chiederei anche dello stato del cinema indipendente in Italia, visto che, insomma, siete forti anche di sei edizioni alle spalle. Guarda, allora, siamo in un momento molto cruciale, siamo in un momento di passaggio. È stata passata a novembre 2016 la famosa legge Franceschini, che ha rivoluzionato il mondo del cinema e dell'audiovisivo in Italia con delle premesse molto positive, nel senso anche di opportunità di credito d'imposta, di aiuti al mondo delle cosiddette creative industries molto importanti. Questa legge è entrata in vigore il 1 gennaio del 2017 e un po' si è arenata, perché in realtà è una legge di sistema estremamente complessa, che ha quasi una trentina di decreti attuativi che non sono ancora tutti al loro posto. Questa cosa qui ti devo dire, oggi che siamo al primo trimestre 2018 e che tutti i decreti non sono ancora usciti, ha creato un po' una sofferenza, perché chiaramente è un periodo di passaggio in cui, non essendo normate determinate cose, nell'incertezza normativa si tende a fermare un po' l'attività di grandi player e di conseguenza anche di tutti i piccoli del cinema indipendente e via dicendo. Oggi c'era una ragazza, oggi abbiamo fatto due convegni piuttosto importanti. Uno era proprio sugli incentivi fiscali per investire nel cinema, quindi per parti esterne alla filiera cinematografica che investono, e un altro invece sull'aspetto di quello che sono i fondi regionali e dell'allineamento di questo enorme sforzo che sta facendo lo Stato verso le industrie creative. Quello che è uscito un po' da tutti e due i convegni è che tanti giovani, poi noi come AGCI rappresentiamo più o meno un 30% della nostra base, sono aziende in fase di start-up o comunque micro-aziende. Trovano a ragionare sugli gli anni della loro vita. Oggi si è alzata una ragazza che vive a Londra, che parla tre lingue, che ha una laurea e un master, che fa la produttrice, ha una casa di produzione in Italia, ha già prodotto due lungometraggi e giustamente dice: io ho appena perso due anni della mia vita. Può sembrare una cosa un po' drammatica così, posta così, però è vera, nel senso che la vita imprenditoriale si conta anche in assoluti anni di vita. Per un ventenne, un trentenne, è ragionare su quanto mi vale la pena veramente investire me stesso in questo settore. È un settore che ha delle prospettive brillanti, anche grazie alla legge Franceschini, ma finché non verrà implementata veramente, in questo momento è molto faticoso. Senti, gli altri incontri in programma su cosa sono incentrati? Ma noi quest'anno, tra l'altro, abbiamo una versione leggermente ridotta dell'evento. Abbiamo tantissimi incontri sul market, abbiamo un workshop molto molto interessante su un tema che stiamo battendo tantissimo, che sono gli effetti digitali e la post-produzione in genere, nel senso che una delle grandi richieste dell'associazione è quella che in Italia si stabiliscano dei fondi non solo dedicati alla produzione dei film, ma dedicati alla post-produzione, perché dalla famosa digitalizzazione la post-produzione è diventata molto più pesante e molto più presente nella confezione di un film. E quindi noi, come del resto ci sono in Germania, in Francia, in Irlanda, non so, per non parlare dei paesi diciamo leader europei, vorremmo delle condizioni, come si usa dire in economia, c'è teribus paribus con gli altri territori, perché quando andiamo a fare le coproduzioni spesso e volentieri la post-produzione finisce all'estero. La post-produzione significa non solo occupazione qualificata e ad alto valore aggiunto, ma laboratori che stanno fissi sul territorio, quindi significa portare grande valore aggiunto all'economia italiana. Quindi una delle nostre grandi richieste è di spostare alcuni investimenti non tanto in produzione quanto in post-produzione. Questo per esempio anche oggi con le Film Commission ci ha visto molto allineati con alcune Film Commission regionali che si rendono conto che la loro regione è già predisposta in questo senso e ha già un comparto di eccellenza in questo senso. Se no, un po' rischiamo che i film più grandi finiscano all'estero in termini di post-produzione. Ok, ho capito. Allora, in chiusura, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul meeting, ma anche sulla vostra attività? Allora, assolutamente. Prima di tutto consultare www.agici.eu, dove trovate non solo tutte le informazioni sull'associazione, ma sugli associati, che hanno ognuno all'interno una pagina dedicata, sui film degli associati che sono in preparazione, in produzione, in distribuzione e via dicendo, e su tutti gli eventi di formazione che l'associazione fa, anche, lo voglio dire, per gli studenti di cinema, gli studenti di audiovisivo. Facciamo tantissimi eventi che sono già aperti a chi si affaccia a questo mondo. Perfetto. E poi siamo su Facebook, sempre facebook.agici. Perfetto. Allora Marina, un abbraccio, un in bocca al lupo, buon proseguimento. Ricordiamo il 7° meeting internazionale di cinema indipendente a Roma, la Casa del Cinema, 15 e 16 marzo. Un abbraccio e a presto. Un abbraccio a tutti.